E ancora una volta a raccogliere gli applausi del pubblico, Lechi Masada, John Zorn, Mark Ribot, Ikue Mori, Trevor Dunn, Kenny Wolsen, Joey Baron, Jamie Saft, Ciro Battista, grandi musicisti che hanno concluso così il festival. John Zorn, Complete Masada. Noi siamo qui in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. La squadra tecnica è composta da Stefano Slai Silvestri, specializzato di ripresa, Riccardino Mori, il nostro consulente musicale, Gina Regina Collauto, il tecnico del suono. Restituiamo la linea, anche perché a questo punto non c'è più niente da dire, anche noi ci avviciniamo all'uscita con il pubblico. E quindi, Nicola, insomma, siamo un po' in ritardo sui ritmi in levare che sta per proporre Roberto Corsi in questa notte di battiti. Direi che grande disordine sotto il cielo e la situazione è eccellente. Buonanotte qui. Buonanotte Pino, buonanotte, ti aspettiamo in via Asiago. Intanto quella che sentite è la sigla di Radio 3 Suite, una trasmissione curata da Monica Nonno e Stefano Roffi, che ha avuto questa sera Monica D'Onofrio in regia, mentre Maria Rita Franceschini è alla console in questo momento. Nicola Campogrande vi saluta dandovi appuntamento a domani per un'altra lunga serata che comincerà intorno alle 19:50 e ci farà ascoltare musica americana, molto Gershwin in cartellone per la serata appunto di domani. Buonanotte.